Tese, le nubi sfilano all'orizzonte. La nostra terrazza spicca alta sul mare. Tu non ascolti. La mano sulla fronte, lasci il tuo sguardo come l'ombra digradare. Io non mi accorsi del vento che dal largo saliva a tratti a sfogliare il tuo vestito. Mi ripetevi, indicando con la mano le poche case, sorpresa. Hai sentito? Ricordo un silenzio frantumato e solo il rombo giallo di ginestre, quando le tue labbra popolato quel muto grido di occhi alle finestre.